Non sembri un'enormità, ma quanto sta accadendo in Costa d'Avorio altro non è che l'avvio della campagna elettorale per la Presidenza della Repubblica, fissata per l'ottobre del 2005. Il paese, diragnato da una feroce guerra civile nel recente passato, è tuttora diviso tra gli uomini fedeli all'attuale presidente Laurent Gbagbo e i ribelli di Force Nouvelle, che fanno capo al raggruppamento dei repubblicani e al Partito Democratico della Costa d'Avorio, pareva avviarsi alla pacificazione dopo una serie di accordi tra le fazioni, l'ultimo dei quali solennemente sottoscritto ad Accra, in Ghana, lo scorso 30 giugno. Questo prevede, tra l'altro, l'adozione di una serie di riforme sul piano politico, principale delle quali la modifica dell'articolo 35 della Costituzione relativo alle condizioni di eleggibilità del Presidente, attualmente riservata solo agli ivoriani puro sangue, cosa che mette fuori causa l'ex primo ministro Alassane Ouattara, leader dell'opposizione particolarmente tenuto da Gbagbo, il quale, pur continuando a ripetere di voler attuare il referendum, sostiene che esso non può essere indetto fino a quando le forze ribelli non deporranno le armi e ricorda che la Costituzione, agli articoli 126 e 127, impedisce l'atto referendario quando, cita il testo, esso attenti all'integrità dello Stato, che deve quindi essere posto interamente sotto l'autorità centrale. L'opposizione non ci sta e ribadisce la richiesta di onorare gli impegni. Intanto tra i due fuochi si trovano i 6.000 caschi blu della Forza di Pace dell'ONU e alcune migliaia di soldati francesi che li affiancano, i quali ultimi vengono accusati da ciascuna delle due parti in lotta di favorire e proteggere quella avversa. L'auspicio è che non ci si trovi di fronte ad un nuovo terribile bagno di sangue. Franco Chiavegatti di Reporter Associati per Amismet Radio.